Ottima scelta! Per costruire una zattera stabile dovete raccogliere rami robusti e di un legno che galleggi bene. Di conseguenza vi serve un legno con bassa densità che contenga più aria. Tutti i pezzi di legno a vostra disposizione pesano 10 kg e i loro volumi sono rispettivamente abete 2 metri cubi, castagno 3 metri cubi, faggio 4 metri cubi. Sapendo che la densità si calcola dividendo la massa per il volume, quale dei tre legni ha la densità minore?